Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, settimana di straordinari in Europa e non soltanto in Italia. Si gioca infatti un turno di campionato tra oggi e domani, non soltanto da noi ma anche in Inghilterra, in Spagna, in Francia, non in Germania, perché con un campionato a 18 squadre non hanno bisogno di questi turni infrasettimanali. Si godono il calcio il sabato e la domenica, giocando a ritmi più accettabili sia per i calciatori in particolare, ma secondo me anche per il pubblico. Chiama di scemi, Fabio Talelli, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti, facendo anche una ricca pausa durante il periodo natalizio. Invernale, certo. Partono un po' prima, partono i primi d'agosto, perché sì, insomma, anche per ragioni climatiche di latitudine un pochino diverse, però con le loro 18 squadre il calcio è spalmato non come lo intendiamo noi oggi, ma invece come era un tempo un po' in tutta l'Europa. Certamente in Italia non c'era bisogno di questi tour de force. Che cosa propone? Poi naturalmente più avanti nel programma vedremo che cosa propone il calendario italiano, a cominciare dal debutto novarese di stasera, perché ormai dopo 55 anni di attesa è un debutto vero e proprio quello che stasera il Novara affronterà contro l'Inter. Dicevo, che cosa offre in particolare il panorama del calendario internazionale tra stasera e domani sera? Beh, intanto c'è in Inghilterra, utilizzano questa cosa, gli inglesi sono un po' più complicati, sì, dal loro punto di vista ci infilano anche qualsiasi tipo di coppa, e tra l'altro credendoci moltissimo nelle coppe, loro la affrontano sempre come se fosse la finale, e quindi ci sono le partite di Carling Cup, mentre invece la Liga fa una giornata di campionato come la nostra, anticipa con tre partite. Il Siviglia gioca contro l'Osasuna che ha appena preso 8 gol dal Barcellona, c'è Real Sociedad Granada e poi Villarreal Mallorca, che è interessante perché Villarreal è partito veramente veramente molto molto male. Per quanto riguarda le partite poi di domani, il Real Madrid gioca a Santander contro il Racing, c'è una grande partita secondo me che è Valencia-Barcellona, perché Valencia è partito benissimo, ha fatto 9 punti, e il Barcellona ha miracolosamente subito recuperato lo scarto che aveva subito non vincendo la seconda giornata a causa della sconfitta del Real contro il Levante, e poi insomma ci sono altre, c'è il Betis di Siviglia che partò benissimo, gioca col Saragozza, giocano tutte tra le 20 e le 22 di domani. Senti, a proposito di Spagna, è curiosa, allora io adesso ti propongo in rapida successione un po' di curiosità, per l'appunto, che ha tirato fuori Franco Piantanida da questi campionati esteri, e così sentiamo le tue valutazioni. Allora, intanto in Spagna c'è una specie di fotografia cristallizzata. Un anno fa Valencia 9, Real 7, Barcellona 6, quest'anno Valencia 9, Barcellona 7, Real 6. Si sono sfalsati soltanto di un gradino le due posizioni di rincalzo, e già questa è curiosa. Molte polemiche a Madrid e dintorni per questa prima sconfitta del Real, e forse anche l'introduzione di un tema che riguarda il calcio violento. L'abbiamo visto in Italia in questo fine settimana con la bruttissima entrata di Lucio sul portiere della Roma, l'abbiamo visto con un fallaccio di Montolivo a Udine, e in Olanda c'è stata una cosa che poi forse tu ci racconterai, ma anche in Spagna la partita del Real con Levante insomma ha avuto accenni di rissa ripetuti, e in particolare Pepe su Xavi Torres ne ha combinata una che ha indotto il mondo deportivo a titolare un Pepe hasta quando, cioè ma fino a quando vai avanti a menare a sta maniera in campo? Sì, devo dirti che Pepe e anche Coentrao, i quali tra l'altro sono anche infortunati, ma diciamo che Coentrao è più considerato nell'occhio della critica per quello che magari non sviluppa dal punto di vista calcistico. Pepe dalla partita del Barcellona dell'anno scorso, della scorsa stagione, ma direi anche prima, insomma, è ormai marchiato in quel modo. Lui non fa veramente nulla per togliersi perché comunque esagera, probabilmente anche molto caricato dall'ambiente, dalla sua squadra, a comportarsi così. Sinceramente devo dire che ieri le valutazioni, i giornali spagnoli, sia quelli di stretto rito madridista che anche gli altri, credo per una volta sono stati tutti uniti nel criticare il Real Madrid, e devo dirti in maniera anche sorprendente. Il Real Madrid ha giocato la partita contro il Levante perché Perché sinceramente il Real Madrid non era stato così fino all'ultima partita, era stata una squadra che non aveva mai toccato vette, ma quelle non le toccherà ma forse mai più nessuno del Barcellona, però era una squadra che era sembrata giocare a un regime diverso, probabilmente il Real Madrid lo potremmo vedere spesso a queste situazioni, la sensazione è che a volte il cortocircuito sia mentale non fisico, sì. non organizzativo. José Mourinho è stato fatto a pezzi dalla critica. Io però onestamente, leggendo un po' le critiche, ad esempio la critica su Kakà, qualcuno ha detto Kakà è buono per il tarallucci e vino, ormai non è più buono, può giocare mezz'ora e non deve più farle queste cose, ovvio, intendersi, perché se Kakà non può essere in grado di giocare una partita contro il Levante, allora stiamo parlando di un giocatore finito. Certo. Io sinceramente penso che prima di dichiarare finito un giocatore come Kakà, magari aspettiamo un momentino, certo. No, perché altrimenti non si fa mai turnover, altrimenti noi stessi continuiamo a dire che gli allenatori usano sempre gli stessi, li logorano, arrivano a marzo che sono già spompati, poi però quando fanno turnover gli allenatori siamo i primi a dire ah ecco, questo non può giocare. Io ho visto la partita, Fabio, secondo me Mourinho ha fatto benissimo a fare turnover, tenuto conto appunto di questo tour de force ininterrotto tra campionato e coppe di cui si parlava all'inizio. Forse la cosa che al posto suo non avrei fatto, però lui è Mourinho, non avrei levato Benzema a fine primo tempo, che stava giocando benissimo. È vero che ha sbagliato un'occasione o due, ma stava giocando da Benzema vero, e a quel punto sì, certo, hai da mandare dentro Ronaldo, hai da mandare dentro Ozil, e quindi mandi dentro gli altri grandi giocatori, però Benzema stava giocando veramente bene. Benzema stava giocando molto bene ed è un rapporto complesso probabilmente quello che Mourinho ha con questo giocatore, e forse gli vuol mandare anche dei segnali, no, sinceramente queste sono veramente cose troppo complesse nelle quali entrare, però io veramente trovo che tenere in panchina ogni tanto Cristiano Ronaldo possa solo fargli bene. Certo. Credo anche che debba pensare di poterlo fare Guardiola ogni tanto con Messi, e ogni tanto magari lo fa. Guarda caso, quando Messi è partito dalla panchina il Barcellona non ha vinto, c'è la partita contro la Real Sociedad, guarda caso con Cristiano Ronaldo non in 90 panchina. Minuti in campo, questi qua hanno perso. Sì, allora smettiamola noi di chiedergli il turno. Sì, oppure il turnover si fa con quelli diciamo un pochino più normali. Dicevo di Nani, di questo grande giocatore che domenica ha tagliato le 100 presenze con la maglia dello United. Curiosamente ha giocato grosso modo dopo 100 partite lo stesso numero di minuti di Cristiano Ronaldo, allora, cioè di Cristiano Ronaldo suo predecessore con quella maglia, lo stesso numero di gol, 19, e molti più assist in compenso, 33 contro 12. La differenza è che Ronaldo alla sua età è stato ceduto al Real per 94 milioni di euro e Nani invece rimane uno dei gioielli di questa squadra rilanciata per la milionesima volta da Ferguson. Di un gol pazzesco contro il Chelsea, un'azione di una bellezza, di una potenza, ha scaricato un destro veramente fantastico. Trovo che il Manchester United sia in questo momento la squadra più divertente da vedere, nel senso che ha qualche variazione sul tema rispetto invece a Barcellona, che gioca sempre benissimo, ma ogni tanto se rallenta diventa anche in questo momento è più spettacolare lo United. In questo momento credo proprio di sì, perché abbina la freschezza, la gioventù, la voglia, alla classe anche di giocatori, la velocità interni. Anche sì. Fabio, no? La ricerca della velocità, vero che la ricerca della velocità che poi è la stessa ricerca che ha il Napoli, per esempio, perché l'abbiamo visto anche in campo internazionale col City, con la differenza che la palla mentre il Napoli la cede volentieri proprio per trovare questi spazi in cui buttarsi, il Manchester la gestisce e trova ugualmente, pur gestendola e quindi trovando gli avversari un po' più chiusi, di fiondarsi a velocità doppia. Sì, giocando un filino più in verticale. Secondo filone più verticale rispetto al Barcellona, cioè utilizzando meno la preparazione, cioè la differenza è che il Barcellona cerca di muovere la difesa continuando a passarsi il pallone aspettando che la difesa si apra. Il Manchester United ci prova prima a infilarla, certo con maggiori rischi perché ovviamente poi lì la difesa può chiudere, però anche con maggiore pericolosità quando il passaggio filtrante funziona, e spesso in questa fase sta funzionando. Non c'è dubbio. Senti questa, no, tu la conoscerai a memoria, ma insomma parte della stampa inglese ha criticato Mancini, perché Mancini si è lamentato di avere solo due giocatori a centrocampo. Allora gli hanno dato del povero ragazzino ricco, che la trovo meravigliosa, perché la roda del City mi pare sia di 29-30 giocatori, i centrocampisti sono 9, perlomeno stando al sito della società, e i milioni spesi da questo pazzo di sceicco negli ultimi 3 anni sono 345. Sì, sì, beh, è tutto vero. A me pare che gli inglesi, però, poi, per carità, la traduzione letterale non deve mai essere così fedele, perché poi sono un povero ragazzo ricco, mi sembra eccessiva, nel senso che è un modo di dire che loro hanno. Sì, è vero, è tutto vero, ma è anche vero che Mancini ha un sacco di infortuni in questo momento, e quindi sì, certo, ha speso un sacco, ha comprato soprattutto giocatori di caratteristiche offensive, e quindi probabilmente certe fasi fa più fatica a farle fare questi giocatori, però effettivamente complice una discreta serie di infortuni è rimasto con pochi, ma in questo momento anche il Milan ne ha pochissimi di centrocampisti, e nessuno si sognerebbe di scrivere, ma intanto perché Allegri non se ne è lamentato, ma diciamo che la virulenza verbale che viene utilizzata, sì, nei confronti di Mancini mi sembra un filino spinta da un paio di considerazioni. Quella che forse Roberto Mancini non è così amato dalla stampa, il fatto che sia italiano, cioè tutta una serie di sì, ma poi giustamente anche questi eccessi dei tabloid, non c'è nessun dubbio che un tempo per noi era più facile deprecare, perché la stampa italiana, come dire, era un pochino più sobria, no? Sì, a sua volta, sì, anche volta. Nella no, non solo nella titolazione, ma proprio anche nell'impostazione. Oggi mi pare che si sia di molto avvicinata. Senti, vabbè, c'è questo gol incredibile di Torres sbagliato a porta vuota, sì, che non so se che sensazione abbia più suscitato, perché la prima è di incredulità, e poi è stato bravissimo il regista a inquadrare immediatamente i tifosi avversari, lo United, che ridevano gli spalti, perché questo, sì, questa è una buona reazione, no, che puoi avere, insomma. Sì, tra l'altro ieri ho visto su un paio di canali inglesi, su Sky Sport soprattutto, anche dei paragoni con altri gol del passato sbagliati, e tutti molto simili. Beh, insomma, lì una spiegazione non c'è, va presa semplicemente la prima parte con lui che fa doppio passo e lascia lì il portiere. Fantastico. E poi entri nell'imponderabile, lì entri nel fatto che succede qualcosa nella testa di un, certo, giocatore che fa cortocircuito con il piede, perché poi Torres non ha giocato una cattiva partita, tra l'altro ha fatto anche un bel gol, si è liberato quasi sempre benissimo. Cioè, io sinceramente, che sono un antico estimatore di Torres e che picchio la testa contro il muro perché lo vedo giocare in questo modo, domenica non ho veramente niente da dirgli. No. Poi però questo ha fatto un errore che non sì, che gli farà male, perché era proprio la domenica in cui si era ritrovato, no? dopo tanto tempo. E però onestamente anche per me Gigi è anche una pietra angolare, nel senso che lui prima o poi deve, cioè gli doveva succedere uno shock, cioè lui ha giocato 19 partite, ha fatto 2 gol e neanche importantissimi. Tu dici che questo potrebbe essere l'elettroshock. Beh, non è il caso di Rooney che si è spiattellato su quel dischetto di rigore. Ma lì è curioso, perché era accaduto anche a John Terry, no, una, certo, partita molto più importante. Certo, però certo, è molto simile. Solo che lui è Rooney, no? Sembrava quelle, uno di quei rigori che si battono, non so, tra scapoli ammogliati, oppure tra, no, magari li tiri con le scarpe della festa, no? E sì, o con le ciabatte. O con le ciabatte, manca l'appoggio e batti una gran sederata per terra. È capitato a un grande, anzi a un grandissimo come sì, Rooney. Sì, sì. Senti, io chiuderei con questa pagella molto curiosa, anche questa di Franco Piattalina, che è questa. L'Udinese è una delle 7 squadre in Europa che hanno vinto 3 partite in 7 giorni, e cioè le due di campionato e il turno infrasettimanale, sì, di Coppa. E quindi ci sono riusciti in Champions solo il Bayern e l'Apoel di Tel Aviv, e poi l'Udinese, il Copenaghen, la Z, il Lokomotiv Vosca e l'Anderlecht. Non so come dire, è un modo per rivalutare questa squadra, così torniamo anche in Italia, questa squadra che è seduta, a differenza di tante altre in Italia e all'estero, parlavamo prima del Manchester City, ma possiamo parlare anche dei 90 milioni di rosso della Juventus, di quest'ultima, dell'ultima gestione, cosa che ha fatto declassare il titolo ieri in borsa, e invece potremmo parlare dell'Udinese, che è seduta su una montagna di una cinquantina di milioni di euro, no? Con le cessioni che ha fatto quest'estate, e però anziché 0 punti come un anno fa ne ha 6. Beh, Questo è perfetto se questo è un discorso perfetto se potremmo rifarlo a Natale. Ah, beh, certo. Io trovo che 2+1 sia troppo presto. Io da questo punto di vista aspetterei, no, nel senso che i soldi incassati è tanta roba, però guarda, sono i primi a Udine a dire di aspettare. Poi può anche essere che coloro che hanno preso il posto, tra l'altro, di questi giocatori possano rendere, non dico quanto Alexis Sanchez, ma possano rendere parecchio. La campagna acquisti è stata una campagna acquisti come al solito intelligente, che però va valutata almeno a medio periodo. Certo. Io credo sinceramente che l'Udinese quest'anno non farà un campionato memorabile, nel senso che prima o poi comunque dovrà pagare dazio, e quindi ripeto, con tutta probabilità potrà godersi della ricca indennità che è arrivata. Certo. Mette fieno ha sistemato i bilanci per anno, mette fieno in cascina con i punti di queste prime partite e spera e fa conto anche di farne maturare altri, che non saranno appunto Inner e Sanchez, ma che magari, perché non è che quelli li trovi sotto i cavoli, no? Però la caratura in questo momento gliel'ha data il preliminare di Champions. Ho giocato male, ma perso due volte, perso contro una squadra che sta facendo una fatica terribile Premier League. Quindi ripeto, sarei felicissimo di aver sul cappotto quando rifacciamo questo discorso. Molto bene, grazie a Fabio Tavelli. Buona giornata Gigi, saluti. Chiudiamo a tutti. Questo collegamento con Sky Sport 24. Stefano da Fano scrive: invece non capisco a cosa è riferito, invece Nesta e Pato, leggo testuale, possono mettere le mani addosso perché hanno l'immunità parlamentare, basta Servi di Arcore. Allora, Servo di Arcore, peccato non averlo letto in tempo per girare anche a Fabio Tavelli questo Servo di Arcore, che credo avrebbe messo molto di buon umore anche lui, a me personalmente moltissimo, perché era uno dei pochi che mi mancavano. Approfitto di questa bella trasmissione per fare le condoglianze a Diego Fuser per la perdita del figlio 15enne. Grazie, scrive Francesco da Torino. Un dramma umano e familiare per questo vecchio mediano, giovane vecchio mediano che era partito dal Torino, che poi ha fatto una eccellente carriera, ha vinto anche alcuni trofei con la maglia del Milan, e la vita gli ha riservato questo terribile dolore della perdita del figlio 15enne, tra l'altro già sofferente, già malato da tempo. C'è in linea Francesco, chiamato dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Buongiorno a lei, buon campionato anche se ritardo. Allora, no, volevo un attimo commentare con lei, volevo sapere il suo parere per quanto riguarda la vicenda di Reja, considerando che io stimo tantissimo Reja come allenatore, come persona, e ho letto oggi praticamente su un semaforo di Roma praticamente era stato pesantemente minacciato qualora avesse perso il prossimo derby. Allora io sono, se si è capito, laziale da una vita, ho 43 anni, quindi sono nato laziale, però è vero, il derby è importante, però Reja è una persona che in 2 anni di Lazio ha fatto solamente del bene, e ha fatto bene. E comunque sia una persona che comunque anche avesse fatto male, fatto male, cioè fermarlo al semaforo, minacciarlo, una persona di 65 anni, poi insomma via, una persona che comunque sia una dignità unica, penso anche. Certo. Se questo è il calcio, speriamo insomma che cambi, credo. La capisco. Penso insomma che adesso come adesso la Lazio ha una bella cattedrale con questi tifosi, che non tutti i tifosi della Lazio sono così. Lo credo. Lei ha perfettamente ragione, ovviamente, Francesco, e questo era uno degli argomenti che avremmo affrontato più tardi, lei lo ha anticipato. Io le leggo soltanto una frase che Rei ha detto stamane e che esprime per l'appunto, credo significhi tutto. Sapete il disagio che ho a lavorare in un ambiente come questo. Il quadro è buono, ma è la cornice che è marcia, ha detto. Ecco, mi sembra che non ci sia molto da aggiungere per il momento. Dunque, la vigilia di Novara Inter, anticipo di stasera del turno di campionato previsto per domani e che avrà poi anche un appendice giovedì sera con Roma-Siena. Allora, cominciamo da Tesser, che è il padrone di casa. Il Novara, ripeto, torna a giocare stasera in Serie A dopo aver aspettato questo momento per 55 anni. C'è uno stadio nuovo che è stato ampliato a quasi 18.000 posti. C'è questo campo sintetico. Non so se questi frammenti qui Tesser dirà, tanto per star leggero, che è un vantaggio per gli altri. Proviamo a sentire cosa dice l'allenatore del Novara. Ho recuperato chi era rimasto a casa per problemi fisici nella trasferta di Cagliari. Dobbiamo valutare anche se è difficile un recupero di Pinardi. Un paio ancora di dubbi su chi lo sostituisce, un Mazzarani o Rigoni nel mezzo del campo. Non andremo a cambiare in vista dell'Inter, abbiamo una nostra identità e la vogliamo confermare anche in questa partita. Ho anch'io pensato, valutato, consapevole della forza dell'Inter, l'opportunità anche di variare, ma ho optato per giocheremo nella stessa maniera che giochiamo sempre. No, non c'era qui il frammento del terreno, l'ho letto da qualche altra parte, che secondo Tesser questo sintetico semmai favorirà la squadra più tecnica, e cioè l'Inter. Riccardo ha chiamato da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a lei signor Garanzini, e buon inizio di campionato in ritardo. Una cosa, io sono juventino, ho visto l'inaugurazione dello stadio che è stupendo, però c'è stata secondo me una nota stonata. Da porre gli scudetti presunti vinti, che per me sono persi, davanti agli spogliatoi avversari, in uno stadio dove vanno le famiglie, cioè quando arriva una squadra come l'Inter, l'ho trovata una cosa veramente di cattivo gusto. Cioè, se pensavo fosse un modo per voltar pagina allo stadio nuovo, mettere quegli scudetti davanti agli spogliatoi avversari, quindi mi immagino gli interisti, ma a me onestamente è una cosa che fa un po' schifo. Schifo, schifo è una parola grossa, diciamo che, ma è soprattutto il numero, mi pare, di quegli scudetti, no? Così ostentato, che è stato un atto di insomma, schifo mi sembra troppo, cattivo gusto credo lo si possa dire a pieno titolo. Comunque poi ciascuno risponde dei suoi comportamenti e delle proprie arroganze. Questo è stato indubbiamente un gesto arrogante che non ci si aspettava, sinceramente non ci si attendeva, tanto più in un'occasione non solo festosa ma anche costruttiva, in una situazione per l'appunto di proiezione nel futuro e non di occhio allo specchietto retrovisore. Per cui questo davvero ha sorpreso in maniera particolare. La vigilia di stasera dall'altra parte della barricata ed è possibile che si tratti di avere una barricata, perché le voci che questa sia per Gasperini l'ultima, la famosa ultima spiaggia, alla seconda giornata, anzi alla terza nominalmente, si susseguono e si sono addirittura infittite in queste ultime ore. Sentiamo Gasperini. Sull'Inter c'è sempre molta, un po' di critica in più, no? Un po' di cattiveria in più nella critica, anche nel giudicare la prestazione con la Roma, che ha fatto una grandissima partita, però l'Inter ha avuto tante occasioni da gol, penso che non abbia allora fatto una pessima partita. La classifica è quella che era di due giornate, quindi tutti gli anni all'inizio ci vuole sempre un po' di assestamento, un po' di partite giocate in più per dare un volto magari più definito alla classifica. Devo dire che queste partite non meritavamo così poco di punti, al di là delle nostre difficoltà ci sono stati anche degli episodi piuttosto pesanti sul quale si è messo un velo pietoso sopra, che potevano essere molto diversi nei risultati e potevano portare dei risultati diversi e probabilmente anche poi delle considerazioni molto diverse. Si è preferito non dire nulla, niente di niente, e quindi va bene così. Hai brutto segno anche questo, comunque non particolarmente positivo, se c'è la rilettura postuma con torto arbitrale incorporato. È sempre un brutto segno da chiunque provenga e da qualsiasi direzione arrivi. In questo caso arriva da Gasperini. Andrea, chiamato dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire una cosa sul Manchester City. Prima però in effetti volevo dare ragione a Gasperini, perché in effetti Lussi non doveva finire la partita contro la Roma. Quindi l'errore arbitrale c'è stato, certo. Tanto per dirne uno. No, poi battuta a parte. No, beh, battuta mica tanto. Gasperini, insomma, qualcosina c'era stato in queste due partite, ma dire che l'Inter ha perso per dei torti in queste due partite che ha perso e quella che ha pareggiato in casa mi sembra un po' eccessivo. Lei poi ha beccato immediatamente una situazione in cui per pura combinazione appunto era andata come valutazione in un altro senso e quindi ci stava e come. Dica Andrea. Niente, io volevo dire una cosa, comunque, giusto per correggere il signor Tavelli, che di solito ascolto sempre con interesse, eccetera. Due considerazioni. Uno, che mi è un po' spiaciuto il fatto che sia scaduto un po' nel qualunquismo del fatto che i tabloidi inglesi ce l'abbiano con gli italiani. E poi il fatto che comunque il centrocampo del City in questo momento vede due giocatori infortunati. 2 su 9, tutto sommato, non è un brutto vivere quando si hanno Aguero, Nasri, Silva e via dicendo, per cui tutto sommato non mi sembra neanche così disastrata la situazione. Solo questo volevo dire. Sì, sì, ma infatti poi che i tabloid, se possono inzuppare il biscottino, insomma, lo facciano sempre con piacere, io credo sia abbastanza, per la verità credo sia abbastanza vero. Mentre è vero, almeno secondo me, che insomma, possono anche esserci degli infortuni che ti penalizzano, però se il tuo datore di lavoro negli ultimi 3 anni ha speso 345 milioni di euro per comprarti tutto quello che volevi e magari anche qualche capriccetto in più, lamentarsi perché hai un paio di infortunati a metà campo e ti tocca magari provare a ritoccare qualche posizione in campo, mi sembra sinceramente un po' gratuito. C'è stata una difesa, no, ci sono due ascoltatori già in linea, darei la precedenza a loro. E il primo è Alessandro, ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Buongiorno. Anch'io sono tifoso della Juve, condivido un po' quello che ha detto quel signore prima, che la facciamo finita con questa storia, tanto una volta per tutte basta, bisogna goderseli quando hai vinto lo scudetto, poi se ce l'hai o non ce l'hai più cosa te ne fai alla fine, penso sia stata già bella l'emozione di vincerli, ecco. Poi un'altra domanda, io vedo troppa ammirazione nei confronti di questa Juve che ha fatto 2 buone partite, ma non la vedo già anche oggi titoli sulle gazzette pronta a vincere lo scudetto. E penso anche che siamo stati fortunati a non aver giocato la prima giornata a Udine, perché se magari lì avessimo perso non partivamo con questa forza che siamo partiti adesso, ecco, ne avrebbe risentito anche il morale della squadra. Ho l'impressione che lei sia un saggio, Alessandro, che in effetti mi sembra che tutto sia abbastanza ampiamente condivisibile quello che lei sta dicendo. Sugli eccessi d'euforia, credo che anche la Juventus, mi pare di leggere e di sentire che la Juventus stessa sta in effetti cercando un pochino di frenare. Sugli eccessi mediatici, lei capisce che la Juventus continua ad avere comunque la maggioranza, la netta maggioranza di tifosi in Italia, ed è i giornali si vendono, questa è una vecchia regola, i giornali si vendono quando le cose vanno, i giornali sportivi si vendono quando il tifoso è quel tifoso è particolarmente contento di come stanno andando le cose, da cui discende che essendo la tifoseria juventina la fetta più grande tra le varie tifoserie italiane, ma di gran lunga tuttora, e tra poco, parentesi, riospiteremo Ilvo Diamanti che per, anche quest'anno per Repubblica ha aggiornato la sua mappa del tifo generale, la mappa del tifo italiano. Bene, visto che quella juventina è la fetta più consistente, si cerca e si prova di tutto per vellicare il massimo potenziale di clienti, no? E quindi, visto che la Juventus è in testa alla classifica, sia pure dopo 2 partite insomma, abbastanza normali direi come avversari, visto che a maggior ragione con il calendario di domani sera può allungare questa striscia giocando in casa contro il Bologna, non mi sembra un'ipotesi così remota, e addirittura magari arrivare a quota 12 già entro domenica a Catania, altra partita abbordabile, vedrà che se i risultati vanno in questa maniera vedrà che ci sarà un crescendo ulteriore, ma ripeto, proprio per ragioni di cassetta banali e vecchie quanto il mondo. Scusi, ma Ivo Diamanti tra poco oggi? Domanda Max da Treviso. No, Ivo Diamanti non è che un personaggio del genere e un'inchiesta come la sua la si spreca, diciamo, pure in finale di trasmissione. No, cioè, ne disegneremo una, ne ritaglieremo una su di lui, come abbiamo fatto la scorsa stagione, in avvio, più o meno in avvio di stagione, proprio per per rifare, riaggiornare la mappa del tifo, perché ogni anno comunque ci sono degli spostamenti, non enormi, ma comunque abbastanza significativi, nella mappa della simpatia per le squadre, ma anche delle antipatie per queste squadre stesse. Andiamo a sentire che cosa è successo, secondo Nicola Filippone, nella storia dello sport un martedì 20 settembre. Sembra ieri. 20 settembre 1987. La Fiorentina sbanca San Siro battendo il Milan 2-0, con un micidiale 1-2 tra il 76esimo e il 78esimo, firmato Diaz e Roberto Baggio. Degno di nota, in particolare, il gol d'autore del giovane fantasista, capace di scartare mezza difesa, compreso il portiere Galli. I viola mettono così in crisi il nuovo corso milanista. In particolare, cresce la perplessità attorno al tecnico Arrigo Sacchi, che secondo molti non arriverà a mangiare il panettone. Ma quello contro la Fiorentina sarà di fatto l'unico passo falso di stagione del Milan, visto che la seconda e ultima sconfitta, sempre in casa contro la Roma, maturerà a tavolino. I rossoneri conquisteranno il titolo in rimonta sul Napoli e sarà l'inizio di un ciclo. Il 20 settembre dell'87, dunque, Loris da Pordenone scrive: poteva dire tranquillamente che anche gran parte dei quotidiani non sportivi vendono di più a seconda di come vanno le cose. Sì, ma con questa differenza, Loris, io ho detto che i quotidiani sportivi vendono di più se le cose vanno bene per i tifosi, cioè per quel tifoso. Voglio dire che se facevo l'esempio della Juventus, che ha la massa di tifosi più grossa d'Italia, e quindi se la Juventus va bene è più probabile che, vellicandolo un tantino con più spazio e titolazioni magari leggermente più accattivanti, quel giorno il quotidiano venda più copie. Non è detto che sia così anche nel resto, anzi, in genere sono i grandi fatti negativi, tragedie assortite di ogni genere, che fanno vendere di più i quotidiani non sportivi invece. Quindi vede che semmai è il contrario. Enrico Siena, buongiorno. Buongiorno signor Ganzini. Dica. Senta, ho telefonato in merito a quell'email che ha letto lei prima, che quel signore, non ricordo da dove, diceva che Pato, Onesta, insomma sudditi di Arcore. Io non sono tifoso non sono tifoso di una squadra di calcio, però mi piace il calcio. Sì. E domenica sera ho visto la partita. Secondo me si è trattato solo di sbagli enormi di quello che viene considerato il miglior arbitro d'Italia. Ha sbagliato a non buttare fuori sia Nesta che Pato, quantomeno a ammonirli, oppure, però ha sbagliato anche, secondo me, c'era un rigore per il Milan e c'era anche sul primo gol di Cavani un fallo su il difensore del Milan, è stato spinto. Io ci andrei piano a etichettare, ecco, sbagli grossi, calcistici, di un arbitro come sudditanza politica. Non c'entra niente la politica. Secondo me, volevo sapere quello piano. Che ne pensava lei. Ecco. Sì, ma ci andrei piano molto, ma molto piano anch'io, Enrico. Poi, poiché Tagliavento non fosse nella sua migliore serata la sera di domenica, mi pare non ci siano dubbi. Non mi pare che abbia influito sul risultato, questo direi di no, anche se per un arbitro del suo livello le imperfezioni sono state abbastanza numerose. Sembra che l'abbia sentito, non so, c'è una difesa di Lotito, una difesa a spada tratta di Reia da parte di Lotito. Non avendola ascoltata, mi posso immaginare la dialettica e vorrei condividerla con voi. Speriamo bene. Nessuno ha respinto le dimissioni, perché nessuno, sicuramente qui va regolamentato il comportamento dell'ambiente. Un ambiente esterno, mi riferisco ai tifosi, ma in particolar modo anche ai mezzi di comunicazione, che cercano in tutte le maniere possibili e immaginabili di creare il caso e di destabilizzare. Questo non va bene, perché siamo alla seconda partita, non è possibile che un allenatore abbia le responsabilità. L'allenatore non si tocca. Chiaro? Ma lei è una persona per bene, come tutte le persone per bene, che hanno amor proprio. Scusate, ma se lei qualcuno ogni giorno qualcuno gli venisse vicino e gli dicesse te ne devi andare, vattene via. Scusa, insomma, non è che fa piacere a tutti, no? La società condanna questi tipi di atteggiamenti, l'ho detto chiaramente, l'allenatore non si tocca. Lei è l'allenatore della Lazio, torna a ripetere, e nessuno ha mai pensato di toglierlo o di minarne la credibilità. È qualcun altro che esternamente vuole screditare e destabilizzare. Beh, questa è una difesa appassionata, in piena regola. Non so fino a quando durerà, perché anche ulteriori voci dell'ultima ora danno Reia davvero sul punto di cedere, nel senso che un gentiluomo 65enne, no, che debba continuare a misurarsi con un ambiente marcio che lui stesso tale ha definito, e non si sta parlando ovviamente né della squadra né tantomeno del presidente Lotito, insomma, la sensazione è che non ne abbia più questa gran voglia. Manuel ha chiamato da Terni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un tifoso dell'Inter da moltissimi anni e vedo questo accanimento contro ogni anno contro gli allenatori, quando c'era Mourinho, poi quando in seguito gli altri allenatori, anche l'ultimo, Gasperini. Non capisco il perché, le motivazioni di questo continuo attacco alla squadra, all'ambiente, all'allenatore dell'Inter. Ma lei sta parlando di Moratti, evidentemente. No, io sto parlando degli attacchi che vengono fatti agli allenatori da parte della stampa. Ah, della stampa. Delle televisioni, certo, è un po' un continuo, quando ti metti a leggere o a sentire qualche cosa, è un continuo. Sempre l'Inter, sempre gli allenatori che non valgono niente, che c'hanno un giorno, due giornali, tre giornali, insomma. Ma io... tra l'altro ci lamentiamo che in Italia gli allenatori durano poco, ma se continuiamo a fare questo tipo di politica attraverso i mass media è chiaro, insomma. Non so, si vede che ci sono molti. Se la colpa è davvero della stampa, si vede che c'è troppa stampa che legge le dichiarazioni di Moratti, che legge Moratti perplesso sulla difesa 3, che legge cioè il dubbio. Non il dubbio, la certezza è che la destabilizzazione di Gasperini sia iniziata il giorno stesso in cui è arrivato, al massimo dopo il primo allenamento, ma sia iniziata in società ben prima che nei risultati, e mi pare che questo ormai sia un fatto abbastanza oggettivo. Luigi Milano, buongiorno. Ah, buongiorno, mi scusi perché sono a pesca sul fiume in banca. Beato lei. C'è una distonia con la radio. Ma niente, volevo solo dire, forse fuori argomento, sul modulo di gioco di Allegri. Sì. Sono rimasto un po' perplesso dopo il primo gol. Sì. Nel senso. Aspetta che spengo la radio. Sì, no, stia attento con la canna. Luigi, che non vorrebbe una responsabilità. No, ho proprio la canna in mano, però sono in barca sul fiume, sotto l'autostrada, quindi sono un po' incasinato. Sì. Volevo dire, dopo il primo gol del Milan, mi è sembrato un po' che il modulo fosse un po' al suicidio. Cioè, abbiamo segnato un gol, non abbiamo Ibra, non abbiamo Robinho, abbiamo venduto Pirlo, secondo me, lo dica lei, è una atta. Sì, Luigi, Luigi, lei sarà anche sotto la corda d'autostrada, ma sono passati 1 minuto e 50 secondi tra il gol del Milan, magnifico tra l'altro di Aquilani, e il pareggio del Napoli. Quindi che nel frattempo Allegri potesse mutare atteggiamento alla squadra al San Paolo, no, anche negli spazi del San Paolo, mi sembra un tantino improbabile. Il risultato di Italia-Russia di stamattina, domanda Roby da Lodi, è stato bello largo, è stato 53-17 per l'Italia mondiale di rugby, 10 secondi di ritardo, il tempo di ringraziare Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio.